Allora, la rassegna dedicata a Jacques Rivette Viaggio in Italia di Metteressin, nasce per rendere omaggio a questo cineasta della Nouvelle Vague che è stato il grande innovatore di questo movimento cinematografico, ma anche un cineasta che ha in qualche modo condizionato anche il cinema indipendente americano. Di lui si conoscono poche opere in Italia, quindi l'idea era quella di offrire tutti i suoi film, una rassegna completa, i film sono in versione originale, a volte anche nella duplice edizione, quella che lui ha fatto a volte per le sale, altre invece non sono usciti. E quindi abbiamo 21 film che vanno dal cortometraggio Le Coupes du Berger, girato 48 anni fa, e arrivano fino all'ultima pellicola che uscirà nelle sale in luglio, distribuita nelle sale italiane il 2 luglio, e si chiama Histoire, storia di Marie Julienne. Ed è un film molto bello, interpretato da Emmanuel Béart e Jerzy Radivojević. La rassegna si terrà alla Sala Trevi a Roma dal 1 al 20 giugno, l'ingresso è gratuito, tutti i pomeriggi e sere con a volte doppia proiezione, ci saranno degli incontri, tranne i lunedì. E poi a Napoli, all'Istituto Grenoble, a partire dal 3 giugno fino al 15 di giugno. Gli incontri, il primo incontro è con Maria Schneider il 1 giugno alle 19, ci sarà anche il regista Maurizio Sciarra, e poi sarà presentato il film Merry Go Round, che praticamente in Italia non è mai stato distribuito. Altro appuntamento il 4 giugno sera, sempre alla Sala Trevi, con i cineasti Jean-Marie Straube e Daniel Huillet, con loro ci sarà Eleonora Martelli, e poi ancora il 15 sera, sempre alla Sala Trevi, Denise de Casabianca, la montatrice dei primi film di Rivette, che parlerà della censura della Religieuse, e con lei ci saranno Virgilio Fantuzzi e Adriano Afra. E il 18 sarà una giornata interamente dedicata a Rivette, la mattina all'Università La Sapienza, al Centro Congressi di Via Salaria 113, Dipartimento di Sociologia e Comunicazione, ci sarà un incontro, una tavola rotonda su come si produce un film d'autore alla Rivette, con Stéphane Jacques-Algeff, Martin Marignac, Pierre Chevalier, Roberto Cicutto, e esponenti di Rai Cinema, docenti dell'Università come Alberto Abruzzese. E poi la sera ci sarà l'anteprima di Marie Julienne. Infine il 20 si chiude con un ultimo appuntamento, dedicato questo al teatro, letteratura e musica, Mise en Scène, con Attilio Scarpellini, lo scrittore Daniel Goldenberg e Sergio Castellitto, che ha interpretato il penultimo film di Rivette, Chi lo sa.